questo podcast della malavita, innanzitutto perché la malavita assoluto, un motivo preciso non c'è. Volentieri, al piano, diciamo che con noi discuterò era solamente una visita molto fugace.